da una botta di vita a questa trasmissione. E noi la ringraziamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in una difficile regia oggi. Daniele Buonamici in redazione, lo dico così perché è Pasqua, c'è un bel sole, le strade sono intasate, eccetera, eccetera. Buon viaggio a tutti, i computer hanno qualche problema. Non Pierluigi Pardo però, ciao Pier. Come va? Benissimo, benissimo. Tutto a posto? Stiamo aspettando la Pasqua. Dove i salamini di Botafogo si mangiano con le uova, con le uova, sì, con le uova di cioccolato. Un momento di grande hilarità subito. Ascolta, questa puntata. No, il discorso, il fatto che avevamo una bella, un bel montaggino per spiegare la notizia del giorno, perché o non gliel'ha detto e quindi ha millantato, o glielo ha detto e a Bodi non ha ascoltato, lo Tito non conta un tubo, scegliete voi. 800240024, fatto sta che ieri Bologna Carpi 0-3 e il Carpi sta volando in Serie A con 12 punti di vantaggio sul Bologna, 16 sul Vicenza che è terzo. Ah, ma ce l'abbiamo? Ma guarda un po', te lo faccio sentire. Io non puoi, io ho detto a Bodi, Andrea, dobbiamo cambiare. Se ne porti sul Carpi una volta lì, ma se ne porti le squadre che marcano, fra 2 anni, 3 anni non ci avremo più la lira. Non resisterà, col veleno in corpo a casa tornerà. Letizia, il tocco dentro con il gol di Fasciuti. Il Carpi è in vantaggio improvvisamente con Lorenzo Fasciuti al 37esimo minuto. Biancorossi sempre vincitori, croce la difesa, forti gol e non. Del Cavassi siete in stringe la marcatura Casarini e riesce a servire Di Gaudio. Letizia, Di Gaudio con il destro, è un super gol di Di Gaudio, 2-0 Carpi. Forza Carpi, Leon, Leon, Leon, forza Carpi, Leon, Leon, Leon, dai, dai, dai, yeah. Lollo dentro, Molina, ancora Lollo. C'è qui e trionfo Carpi. Forza Carpi, grinta più che mai, gioca con amore e non fermarti mai. L'avversario non resisterà, col veleno in corpo a casa tornerà. Allora Carpi Bologna 3-0, il Carpi vuole in Serie A e lo Tito? No, allora lo Tito parliamo fra un attimo, ma innanzitutto c'è da dire che hanno avuto 2 mesi di tempo per rifare l'inno, direi. 3 mesi di tempo per presentarsi in Serie A con un inno. No, mi faceva ridere questa cosa, poi giuro che divento serio, questi cognomi, no? Sì. Fasciuti, Lasagna e poi anche Di Gaudio e Letizia, c'è una squadra proprio che fa pensare, cioè, una grande allegria alla gioiosità emiliana, era molto carboidrato. Detto questo, io sai come la penso, io credo che quella telefonata di Tito da sola non sia nulla di, so che è impopolare dirlo, ma non credo che sia veramente nulla di così compromettente, perché io l'ho interpretata come il pensiero di moltissimi manager del mondo del calcio che fanno una considerazione. Ho visto che Zazzaroni ha appena scritto che Carpi più Scuolo, più Chievo, più non mi ricordo quale altra piccola città di Serie B, non, insieme non fanno un quartiere di Roma, ecco. Sì. E questa valutazione è una valutazione che si fa, sì, da un punto di vista proprio pratico, perché è evidente che insomma i grandi bacini d'utenza riempiono gli stadi e muovono l'economia legata al pallone con molta più forza rispetto alle piccole realtà o ai piccoli miracoli. Detto questo, sono ovviamente felice perché tutte le volte in cui l'ordine apparentemente costituito viene sovvertito, la qualità è una gioia, perché vuol dire che il calcio riesce ancora a sorprendersi. Fa fatica a sorprenderci a livello di grandissime realtà, di Champions League, perché lì è difficile che che non vinca una delle solite note. Ma certo, se Pier, se allarghi il campionato a 20 squadre, in fondo delle grandi città, delle squadre storiche in Serie A in questo momento, manca Bologna che però sta arrivando, il Bari che è una grande piazza, però ci sono tutte, no? Addirittura in Lega Pro, ci sono fior di Lega Pro, molto più importanti di Carpi da un punto di vista di dimensione. Però detto questo, è la bellezza del calcio. Poi c'è anche da dire che non sempre c'è una corrispondenza fra il bacino d'utenza e la forza economica di una società. Certo. Il Chievo in questi anni è stato molto solido. Campedelli ha avuto in un calcio in crisi come il nostro relativa facilità nel conservare il Chievo per tanti anni. Io penso che la stessa cosa succederà se non si romperà le scatole del giocattolo, sicuramente a Quinti, perché, certo, perché la forza economica che può avere il Sassuolo è solo apparentemente quella di una piccola squadra, quella di una squadra media, chiaro. Che magari è molto più solida di tante altre realtà. Ma infatti conta ciò che sta dietro a una squadra. Intanto c'è Nicola che scrive: vi prego ditemi che è una parodia e non l'innovero del Carpi. Enzo, finalmente noi del Sassuolo ritroveremo il nostro vero derby. Intanto con l'inno stravinciamo, visto che il nostro ha scritto NEC. È già cominciata la lunga sfida. Nero Verdi. È cominciata la lunga sfida. La verità, oggi io ho twittato che comunque da quando Lotito ha fatto la famosa telefonata, il Carpi non sbaglia più un colpo, certo. Non è neanche verissimo, perché c'era stata una serie di pareggi. Io dico la verità e gli esperti della Serie B ovviamente potranno contraddirmi: io non ho visto in questo campionato nessun complotto anti-Carpi. Poi ci sono stati anche quelli che hanno detto in questo modo, e con la divulgazione di questa telefonata al Carpi tutto sommato è stato fatto un favore, perché ovviamente sanno tutti le a monitorare. Poi ognuno legge questa vicenda come ne ha voglia. Secondo me questo è il modo corretto per leggerla. Per Luigi, quantomeno, perché se ci fossero stati degli errori arbitrali assolutamente in buona fede, ma contro il Carpi se ne sarebbe parlato. Apre di cielo. No, come una sorta di antifurto contro eventuali errori arbitrali, che non mi pare che siano stati, anzi nel giorno più caldo, quello dopo le intercettazioni, con un rigore abbastanza assurdo per Carpi nei minuti finali, poi comunque sbagliato. Il Carpi era stato più forte della B, deve andare in Serie A, e non ci risulta allo stato dell'arte che Lotito abbia fatto pressioni vere, reali, sugli arbitri, perché quello sarebbe stato gravissimo da quella telefonata lì. Secondo me è stato assolto, non c'è la prova. È stato assolto dalla Procura Federale per aver dato in modo presunto, secondo la Procura Federale, del cretino da Bodi, una famosa intervista al Corriere della Sera, secondo Stefano Palazzi, che ha disposto l'archiviazione. Non si può ritenere accertato che la parola pretestamente lesiva, cioè cretino, sia stata effettivamente pronunciata. Vabbè, traffico, poi parliamo anche di molto altro. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. Tutti convocati. Tanto è un piacere salutare Federico Ferri dai piani alti di Sky, caro Pardo. Ciao Federico. Ciao, come stai? Bene, molto bene. Stavamo essere di nuovo con voi. Piacere nostro. Stavamo discutendo del Carpi che, con buona pace di Lotito, sta arrivando in Serie A. Non è facile sostenere a lungo però un campionato così, Federico, onestamente. Le dinastie fanno bene solo a chi ha lo scettro, e poi con 20 squadre è quasi fisiologico che ci siano anche piccole realtà. Sì, poi sai, abbiamo comunque avuto degli esempi di recente. Per dirti, l'esempio del Sassuolo è abbastanza indicativo da questo punto di vista. Cioè, è una squadra che è piccola come piazza, come bacino, ma ha dimostrato di non esserlo né dal punto di vista imprenditoriale, ovviamente, vista la proprietà, né dal punto di vista della qualità delle scelte e anche del bene che sta facendo in qualche modo, perché una squadra italiana sta facendo un bel gioco, una squadra che sta ripetendo forse quello che ha fatto il Chievo in misura differente, perché lo fa in modo ovviamente con più mezzi e con forse anche più visione dal punto di vista imprenditoriale. Quindi non è detto che per forza la piccola piazza, il piccolo bacino non sia positivo. Poi ovviamente i numeri li riconosciamo, non è quello il punto. Sì. Però con 20 squadre, come dicevi tu, è inevitabile che questo accada, ma accada anche in Premier e non c'è nessuno che si decida. C'è l'Eibar, 5.000 stadi da 5.000 posti, che è nella Lega Spagnola. Dal punto di vista televisivo non lo so, Pardo. Non so come possa essere un campionato così. Ma il campionato è sempre bello, nel senso che non è che se c'è Sassuolo, Napoli, quelli del Napoli non la guardano. Ribadisco, io interpreto quel ragionamento di Lotito al di là della simpatia o antipatia che ognuno di noi può avere per il personaggio e per altre uscite secondo me invece più imbarazzanti, l'ho interpretato da subito come un discorso complessivo, un discorso che se fosse stato annunciato con altre parole all'interno magari di un dibattito sul futuro dei diritti televisivi non avrebbe scandalizzato nessuno. Poi ripeto, è diverso se poi ci sono state delle pressioni, ma questo non lo sappiamo. Se ci verranno a dire che poi dopo quella telefonata ce ne sono state altre per condizionare gli arbitri, allora è tutto un altro paio di maniche. Certo. In assoluto è chiaro che dal, quando poi fra qualche mese avremo i primi dati sugli abbonati e ci sarà magari la contrazione del numero degli abbonati o del numero di biglietti degli stadi, sai quelle inchieste che fanno i giornali, sì, ne è appena stata fatta una pompi, no? In cui magari c'è la nazionale e allora si va ad approfondire. È chiaro che avere squadre con dei bacini d'utenza piccoli, con degli stadi piccoli, sicuramente toglie dei numeri. No, ma ce n'è appena stata una di Parma di tanti degli anni 90, che poi sappiamo qual è finito, ma insomma era diventata una delle sette sorelle, in certi momenti una delle prime due o tre squadre del campionato, con tutto rispetto per Parma, ma non è una delle prime tre città d'Italia. No, no. Quindi, ma è chiaro. Fenomeni di questo tipo ci sono sempre stati. È chiaro che nel calcio di oggi, che è un calcio dove l'aspetto economico, purtroppo, aggiungerei, è sempre più importante, questo diventa rilevante. Però benvenuto al Carpi. Benvenuto, racconto sportivo è una cosa bellissima. Benvenuto al Carpi, poi andremo ad esaminare il numero. L'inchiesta c'è già stata questa settimana, dimostra come c'è una continua contrazione degli spettatori negli stadi di Serie A. Io continuo a sostenere che in questo le TV c'entrano pochissimo. Invece, altro discorso, Federico Ferri, parentesi azzurra nel cuore più caldo della stagione, ci lascia due partite complessivamente da 6 di media, un paio di lampadine accese sui nomi di Edere Valdifiori, un falso infortunio, una lunga coda di polemiche, basta così, no? Ma dunque, su 6 sono d'accordo sulla media, sulla qualità del gioco espresso dei risultati. Sulla costruzione di una squadra, secondo me invece un passo avanti è stato fatto ulteriormente. Cioè questa comunque sta diventando una squadra. A me ha sorpreso abbastanza la squadra che ha giocato contro l'Inghilterra. Erano quasi tutti nuovi. No, probabilmente se giocassimo domani l'Europeo non so quanti dei giocatori che hanno giocato contro l'Inghilterra sarebbero titolari, però c'era un'idea di gioco e in questo secondo me già il lavoro di Conte sta dando dei risultati. Il materiale umano a disposizione è quello, c'è poco da fare. Bisogna augurarsi che di qui a qualche mese qualcos'altro venga fuori, però secondo me una squadra sta nascendo. Ho sentito qualche giorno fa, proprio sentendo la vostra trasmissione, Pier Luigi che diceva che questa è una squadra che in qualche modo è stata creata da Conte per dare fastidio a tutti, perché questo è quello che può fare, cioè può metterla molto, certo, sull'agonismo, può essere molto organizzata. Ecco, su questa strada secondo me un passo avanti è stato fatto. Poi la vicenda Marchisio invece è un altro discorso. quella è un'altra storia. Ci avviciniamo a una curva abbastanza interessante del campionato: Fiorentina Sampdoria, Palermo Milan, ma soprattutto Roma Napoli sabato alle 12:30. Ne ha parlato anche Malagò, proviamo a sentirlo. Mi sembra di aver fatto nulla di eccezionale, mi sembra proprio doveroso. Qui c'è un problema morale e non solo morale. Quello che è successo a Ciro è successo vicino allo Stadio Olimpico, ero venuto per vedere una partita allo Stadio Olimpico, la settimana di Roma-Napoli, anche la settimana della Pasqua, della Santa Pasqua, per cui c'è la presentazione del libro, c'è un fine nobile, mi sembra di aver fatto il minimo del mio ruolo. Sì, se glielo devo dire tutto, non perché c'è Roma-Napoli o perché c'è il ricordo di Ciro o perché siamo vicini a Pasqua, ma ogni partita di calcio dovrebbe essere una festa. Dunque, questo era Malagò in occasione della presentazione del libro della mamma di Ciro Esposito, Ciro vive, partita che onestamente permette un po' i brividi. Beh, speriamo di no, speriamo che sia così, una bellissima, tra l'altro come almeno sul piano dei ricordi, dell'emotività. È abbastanza incredibile, simbolico, perché insomma ha queste attenzioni esoteriche, non è laico e civico come me, pensare che questa partita l'andata sia stata nel giorno del ricordo dei santi e il ritorno sia la vigilia di Pasqua. Insomma, due momenti dal punto di vista, diciamo, religioso abbastanza simbolici. Io ho conosciuto Antonio Leardi, l'ho avuto ospite due volte, l'ho voluta fortemente ospite della prima puntata di Grago quest'anno. Sono rimasto sconvolto in positivo dalla forza di questa donna. Dobbiamo ripartire da lì, Però secondo me quello che lei ha detto l'altro giorno è fondamentale, cioè il perdono che lei ha da subito accordato a chi ha ucciso il figlio è un perdono cristiano, un perdono bellissimo, nobile, del quale io non so se sarei stato capace. Poi c'è una richiesta di giustizia, questa, un paese forte reagisce con la giustizia, punendo severamente i responsabili, capendo le responsabilità. In questo è chiaro che ci sono dei tempi, anche perché insomma non è che non è stato un colpo sparato in pieno giorno nel centro di una città, bisogna capire esattamente il meccanismo, la dinamica, chi ha cominciato, quindi bisogna dare ovviamente tutto il tempo alla magistratura per farlo, ma è l'unico modo, secondo me, punire severamente i responsabili per togliere a chiunque, anche ai più esercitati, l'idea, la tentazione della vendetta privata. Che certo, senza cascare nella, anche se può essere inevitabile, nel concetto retributivo della pena, che è un concetto sbagliato. Poi sui tempi della giustizia italiana ogni giorno abbiamo delle perplessità, ne abbiamo avuti di recente. Ecco, speriamo che non vada in prescrizione, diverse. Se mi passi una battuta. No, la prescrizione non è, in quel caso, per fortuna, cioè per fortuna, non esiste. Non esiste, tra l'altro in questo momento c'è anche, se ne è parlato molto nei giorni ovviamente della sentenza di Calciopoli, c'è anche un progetto per allungare i tempi, quindi sì. Evidentemente i tempi della prescrizione, quindi evidentemente ci si interroga su questo elemento. Però ecco, è l'unica possibilità che abbiamo, uno Stato che funziona è uno Stato che dice a chiunque, anche a chi ha i pensieri più tremendi in testa, che non si può fare una vendetta, a parte che poi qui sono storie di uomini, non sono storie di città, non è Roma contro Napoli, sono persone contro altre persone. Pierre, è una storia di criminalità e come tale ci auguriamo che venga punita con gli strumenti civili, cioè con la legge. Un'ultima considerazione al Federico Ferri, questi giorni c'è l'ennesima puntata, ci stiamo allenando negli scioglilingua cinesi, c'è l'ennesima puntata, cessione del Milan, oggi c'è Zhong Qingwu, proprietario della Wahaha Group, che non è una risata ma è una grande azienda di bevande cinese. Secondo un'agenzia di questa mattina, avete ripreso anche da Sky, ho visto Sky TG24, Sky Sport 24, secondo Sky News il Milan è stato ceduto, il 75% del Milan, per un miliardo e mezzo, non si capisce bene, con Barbara Berlusconi che resterebbe amministratrice delegata. Dalla Cina arriva una smentita secca, come la vedi? Altro scioglilingua che va ad aggiungersi alla collezione? Sì, secondo me sì, ma al di là del fatto che dare un'opinione da questo punto di vista senza avere delle notizie forti, e in questo momento noi, almeno qui Sky, rimaniamo all'agenzia di questa mattina, che è un'agenzia ASCA, e alla smentita che è arrivata dalla Cina, appunto dicevo, l'opinione vale fino a un certo punto. Quello che mi sembra ormai certo è che si tratta di schermaglie e di indiscrezioni e fuoriuscite di notizie, di trattative, sì. perché c'è una volontà chiara, evidente, che è quella di vendere tutto o parte, e credo che in questo momento la vera notizia sia questo: quanto del Milan sarà messo sul mercato, certo. Se il più del 51 o meno del 51, alla fine credo che sia questa poi la vera notizia. Capire quanto l'attuale proprietà del Milan rimarrà alla guida del club o meno. E anche questa notizia di Barbara Berlusconi comunque è interessante da comprendere, perché se si tratta di una situazione alla Moratti Tohir, sappiamo che è soltanto un punto di passaggio. Non credo che esista in questo momento una grande holding, una grande proprietà che possa comprare per quelle cifre poi un club e poi non amministrarlo, certo. Sembra che non esista proprio. Certo. L'unica cosa, l'unico momento che si può fare è quello di usare un proverbio: tanto tuono che piove, prima o poi succederà. Sì, e poi Carlo, c'è anche l'attivismo di Berlusconi, in generale di Mediaset, in questo periodo, insomma. Io adesso non ho nessuna notizia particolare, un po' perché sono da casa, ma poi anche perché chiaramente non so niente, però insomma leggo i giornali, sicuramente. Negli ultimi mesi abbiamo letto di offerte di Mondadori per Rizzoli, delle torri, ovviamente la Champions League, cioè c'è stata tutta una serie di investimenti che vanno nella direzione, cioè mi sembra una fase molto dinamica dal punto di vista imprenditoriale, molto proattiva, e quindi in questo tipo di meccanismo questo potrebbe essere un ulteriore indizio, ma ripeto, soltanto un indizio, queste cose poi tanto sai che le sa solo Berinazzo che poi peraltro convocheremo. Federico, io ti ringrazio, grazie davvero Fede. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, Federico Ferri. Abbiamo, guarda caso, a borsa. E poi torniamo insieme 800 24 00 24. Un sacco di messaggi e anche alcune mail sull'inno del Carpi che pare non piaceva proprio a nessuno, neanche ai tifosi del Carpi. Ma adesso c'è tempo, dai. Che chiedono al concittadino Paolo Belli di riscrivere l'inno. Nulla in contrario, dibattito aperto a dopo. Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Convocati. Quale cicco che ti smazza la hit voodoo? È fan pa' you, è fan pa' you. E se avanza, si prende, si spinge, mo. È funky do, è funky do. E la sua compagna Giovanna era tifosa della Fiorentina, lo è ancora. E dato che lei è quella che dice comanda tanto, stavolta deve perdere. E sarò molto felice di dire, per favore, non parlare. Cosa? Ma che è sta merda? Bene, effetti. Perché non cacci un po' di sapido rap? La Juve penso che sia irraggiungibile in questo momento, sia la squadra più forte, ma già a inizio campionato si vedeva che aveva qualcosa in più e quindi arrivare secondi avrebbe sicuramente il sapore di uno scudetto. Puoi buttarla sulla gang come Mr. Bean, ma non puoi fare il capo degli assassini. Io sono come Nemo nel mix di Fritz e non vado in skate, ma c'ho tasty fix. Beh, che io ho sempre detto che di speranza vive e di sperato muore. Voglio andare lì e fa due gol come ho fatto a Roma. È normale che avere la Roma davanti dà uno stimolo in più, soprattutto è molto sentita questa rivalità in città, quindi inevitabilmente quando si vive la vita quotidiana si hanno un po' di pressione in più perché i tifosi ci spronano ad andare a raggiungere la Roma. Però ripeto, noi dobbiamo guardare noi stessi perché facendo così possiamo arrivare lontano. Mescon Ferrer, inconfondibile, e Stefano Mauri, capitano della Lazio, impegnata già in questo lungo derby con la Roma, così ricomincerà il campionato. Pierluigi, parliamo con un paio di ascoltatori, cosa dici? Vai, volentieri, molto. Bene, Bruno da Modena, buongiorno. Buongiorno, no, Bruno da Carpi, puntualizziamo. Da Carpi, la stavamo aspettando, mi hanno scritto da Modena, chiedo bene. Lei ce l'ha con lo dito oppure no? Guardi, io la mia telefonata sarà breve perché fra le altre cose mi è arrivata una persona, la devo servire. Sì. Ringrazio Lotito per quello che ha fatto, perché comunque ci ha dato visibilità, no? Ah. Al di là di quello. Poi io non sono un tifoso, sono uno sportivo, volevo ringraziare pubblicamente tutta la squadra del Carpi. E se me lo consente, volevo fare un saluto particolare allo Tito, stile Totò, con una bella pernacchia in diretta. Prego. Me lo consente? Prego. Allora, signor Lotito, questo è il mio saluto per il signor Lotito. Lo aspettiamo a Carpi e quando viene a Carpi lo facciamo nero, ma non nel senso... Sportivamente parlando. Ecco, gli dica allo Tito di venire con un bel sacco, perché se lo porta pieno di palloni. La provocazione strettamente sportiva, io credo possa accettarla anche lo Tito, importante che non si vada un millimetro oltre. Io ti dico che secondo me non era quello, cioè secondo me non c'è niente, secondo me lo Tito non ha niente contro il Carpi. Questa notizia sembra una breaking news, non ha niente contro il Carpi, cioè, ha fatto quell'esempio lì per dire che le squadre piccole dal suo punto di vista, dal punto di vista economico, alla lunga possono rappresentare un danno per il calcio italiano. Poi se a Carpi si offendono ci può anche stare, un'epoca della quale diciamo che nero, quindi, ha usato il Carpi come paradigma, titolo esemplificativo, diciamo perché, così. Perché poi la cosa vera, il rovescio della medaglia di questa storia qui è che se il Carpi, che ha un bacino d'utenza che è nettamente inferiore ad esempio a quello del Bari o del Bologna, al Bologna gliene fa 3 e c'ha 14 punti, 16 con lo sul Vicenza, è ancora più bravo e quindi si merita un applauso ancora più grande. Questo è indiscutibile, questo è l'elemento secondo me che che però va di pari passo con quel discorso lì, proprio perché sei teoricamente più debole, perché non hai 30.000 persone allo stadio, ma ce n'hai magari 4.000. Se riesci a fare questo risultato sportivo, sei ancora più bravo. Sei ancora più bravo, se poi riesci a costruire una squadra che riesce ad abitare in Serie A per qualche stagione, più bravo ancora, ma questo lo scopriremo vivendo, come diceva il poeta. Nel caso di oggi non è così complicato. Ma infatti. Con i diritti televisivi basta avere un gruppo solido, una società insomma con un minimo di spalle larghe e puoi costruire... Non è con i biglietti dello stadio che si fa la differenza tra grandi e piccole, no? Quindi io penso che il Carpi, e credo quello che so, una società molto solida, abbia tutte le possibilità per venire in Serie A e per rivenderci per un po'. Sandro Udine, buongiorno. Buongiorno. Allora, tre considerazioni proprio al volo. D'accordissimo con Pardo sullo Tito, che non mi piace come personaggio, ma questa volta penso l'abbiano strumentalizzata proprio alla grande, perché secondo me intendeva proprio quello che dice Pardo. E poi una cosa sul discorso degli spettatori allo stadio. Concordo sul fatto che non c'entri nulla la TV per un semplice motivo. I motivi secondo me sono due: storicamente il fatto che gli stadi in Italia non sono posti sicuri, quindi disincentiva anche a portarci per esempio i figli. In più non dimentichiamo posso aggiungere però che non, posso aggiungere che non lo sono mai stati. Non è un fenomeno nuovo, no, attenzione, vero, perché negli, vero, anni, però, negli anni 70, aggiungo, 80, 90 erano più pericolosi ancora di adesso. Quello è vero, però è anche vero, questo è vero, però è vero anche che negli ultimi 7-8 anni la gente fa fatica a arrivare a fine mese. Esatto. E questo è, secondo me è la madre delle ragioni su questo. Invece volevo concludere solo con una domanda a te, Carlo. Io sono un milanista sfegatato, grato sportivamente a Berlusconi, perché ho già visto in 46 anni 5 Coppe dei Campioni vinte dal Milan, non, neanche Barcellona e Real Madrid hanno tifosi che si possono vantare di ciò, quindi felicissimo. Però a parte che lì dentro c'è ci sono poche idee che ben confuse in questo momento a livello societario, ma la domanda è questa: bisogna ricostruire, che lo ricostruisca Berlusconi, che lo ricostruisca un nuovo proprietario, indifferentemente chi. Si fanno nomi di 3.000 allenatori. Alla fine, tra tutti quelli che vengono nominati, io ritengo, volevo sentire la tua opinione, che l'unico, perché lì bisogna far capire alla gente che si accorre, l'unico che ha veramente i numeri per poter costruire qualcosa nel tempo, anche se permetto personalmente mi sta un po' antipatichino anche lui, è Mihajlovic. Volevo sentire la tua opinione. La mia opinione, che ho detto molte volte, è che vale di più il discorso a monte di quella a valle. L'allenatore è qualcosa di conseguenziale, cioè in questo momento mi sembra che il nodo della questione sia capire cosa succederà nelle prossime settimane, forse al Milan. Poi l'allenatore sarà quello che deciderà la proprietà, no Pier? Sì, no, assolutamente. A me Mihajlovic sembra più un allenatore, non mi sembra tanto allenatore da Milan di Berlusconi, nel senso che storicamente il Milan di Berlusconi ha scelto, non che sia male, perché era già benissimo, però ha scelto allenatori che avevano una componente estetica anche superiore, quindi mi sembra più adatto Montella, mi sembra più adatto Spalletti. Mihajlovic, diciamo che se metti su due arci cartesiani, da un lato l'intensità, quindi l'aggressività, e dall'altro la bellezza del gioco, Mihajlovic è più sul lato, secondo me, della forza, no? della personalità. Non ti sembra un profilo tecnico da Milan? No, stiamo parlando di un ottimo allenatore, e secondo me se poi diretti i giocatori buoni, anche un calcio. Ma il problema è quello, cioè, però, non si può sapere adesso quale è il Milan che verrà. Era fissato con alcuni aspetti, proprio c'erano certe idee di gioco, eccetera. Secondo me Montella è quello che si adatta meglio all'idea berlusconiana, poi sì. Quindi deve anche capire se veramente sarà lui a decidere. Esatto, quello, qualcun altro. Secondo me è esattamente quello. Volevo aggiungere una piccolissima nota di 20 secondi, un discorso stracondivisibile. Gli stadi, quando sono arrivati i soldi delle televisioni, i due discorsi che si facevano erano che adesso i biglietti costeranno meno e gli stadi saranno migliori, più belli. Perché c'è anche un fatto di comodità. E infatti è andata proprio così. Io non credo che le televisioni in assoluto possano essere un problema, perché la partita vista allo stadio ti dà tutta un'altra emozione, e lo dico da uomo di TV che ha la fortuna di andare gratis lavorando negli stadi. Esattamente, per me non c'è partita, però non, alla fine, è una cosa diversa, cioè non è che uno alla abituato fine, se io devo pagare, non so, 20, 30, 40 euro al mese abbonamento a Premium o a Sky e ho tutte le partite del mondo, oppure andare in tre, magari una famiglia, allo stadio a prendermi l'acqua perché non c'è la copertura, a rischiare i tafferugli, magari qualcuno questo ragionamento lo fa. Cioè, la cosa per me, lo stadio è sempre preferibile, però bisogna vedere che stadi sono. Sì, allora, in Germania gli stadi sono pieni, cioè la TV c'è pure in Germania, ma in Germania gli stadi sono pieni perché è un'esperienza bellissima. Certo, no, e non solo in Germania, facevo ieri il paragone, cioè ieri ho detto che per la prima volta abbiamo scoperto di quale colore sono i seggiolini del Juventus Stadium e sono bianchi, perché di solito sono appunto tutti esauriti in qualunque partita, mentre sarà una questione di appeal, ma la nazionale non, a Torino non ha riempito. Abbiamo tempo di far sentire una canzoncina a Parlo per salutarlo? L'altro giorno era Hello Kitty, stavolta cos'è? Secondo me lo sai. Cos'è Pierluigi? Non lo so, questi piccioni, non sente niente al telefono, sembra Quark, il mondo di Quark, che cos'è? Il mondo di... no, è la sigla di Game of Thrones, che sicuramente... Ah, sì, Trono di Spade. Sì, Trono di Spade, ti piace? Ma ho visto che c'è alla Pinatina, hanno messo il Trono di Spade. Bravo, questo, lì volevo arrivare, eccolo qui. Io parlo per l'Inter, vorrei difendere l'Inter con spada, scudo e tutto, per non perdere nessuna partita da adesso in poi. Quindi prendiamo tutte le spade che abbiamo qui per difendere bene e anche attaccare per vincere. In Trono di Spade c'è il Signore della Luce. Chi è il Signore della Luce per l'Inter? Oggi credo che sia Shaqiri, che è uno che può cambiare una partita, sta giocando bene, quindi è uno che ci può dare tanto, che ci può aiutare. E credo che sia lui. Un po' di epica Juan Jesus, dalla Pinettina, Pier. Sì, veramente mi hai commosso, guarda. Non ho dubbi, cioè, guarda. Finisco arricchito questo dubbi. Mio sì. collegamento proprio felice. Sì, no, sì, no, non ho dubbi. Io sono pensare veramente poco. Che non guardo queste serie, non, sono io nemmeno. Io nemmeno. No, lo so, ma vale siamo io e te, perché. Vabbè, saremo io e te, però non so se Shaqiri, il signore della luce. Non so se Shaqiri. No, neanche De Luca che si inventa il The Clipper, il signore della luce, fammelo dire. Sinceramente, insomma. Può il signore della sfogliatella. Chiedimi se preferisce Riccio o Prolla. Riccia, anche io. Capisce poco, io frolla. E tu frolla, che ti devo dire? A noi Riccia. Ciao Pierluigi, senti a domani. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao. Tutti convocati. Questa la conoscete anche voi, però, Annuncia l'arrivo di Filippo Maria Ricci. Eccolo qui. Ciao Filippo. Buenas tardes. Buon pomeriggio. Tu hai la tua canzoncina, cioè hai il tuo sottofondo. Personalizzato. Il jingle personalizzato meraviglia, Filippo Maria Ricci, quindi. Meraviglia. Ma scusami, la Spagna piglia tutto, degli assi, dei fenomeni, le furie rosse, dove è finita? Adesso prende schiaffi da tutti, non la trovano più. Sì. Ha vinto a fatica lì con quel golletto di Morata, no? Sì. Con l'Ucraina. Con un paio di sberle dall'Olanda. Però sono migliorati, ne avevano prese 5 l'ultima volta. Ah, non dici così. Mi sembra un netto miglioramento. Spagna B, potremmo dire, no, però in realtà no. C'è un anche nelle qualificazioni europee sta facendo un po' di fatica, cioè non sta dominando. No, molta. No, molta fatica. Ha perso dopo non so quanti anni, no? Secondo me è un problema legato al cambio, molto ovviamente al cambio del Barcellona. Il Barcellona nell'ultimo classico aveva meno spagnoli che il Real Madrid, sembra solo 3. Quando invece prima nel regno del tiki-taka ne portava in nazionale 5-6. Tra l'altro gente preparatissima, cioè con un gioco ben delineato. Vicente del Bosque è stato molto furbo, cioè si appoggia quando ha visto quel Barcellona, certo, aveva la pappa pronta, no? Appoggiato. Esatto, ha fatto il blocco come ha fatto in molti. Sì, esatto, poi ci aggiungi un Sergio Ramos, male non fa, no? Uh-huh. Poche altre cose e ci siamo. Adesso no, c'è Alonso, capito? Adesso quel blocco non c'è più. Appunto questo dato secondo me del classico molto indicativo. Il Real Madrid in realtà l'ha detto anche post che la settimana scorsa dice nelle posizioni chiave ci sono pochi spagnoli. E che è un po' questa vero, l'ho già sentita, questa l'ho già sentita declinata esatto, sì, in altre lingue. Sì, no, no, chiaro. E poi veramente in Italia o in Inghilterra ha molto più senso di quello che dice Del Bosque. Però è vero che continua ad avere questa serie di mezze punte che però non hanno più la stessa qualità. Poi voglio dire, ma Xavi, siamo al lumicino, siamo no, già con un piede in Qatar. Iniesta quest'anno è in tutto... Esatto, dico, Iniesta è un campionato, sta chiudendo il campionato per ora senza né un gol né un assist. Gioca sempre, essendo un grande campione, riesce magari a strappare quel mezzo sei, così, no? Però non è più quello del mondiale. E Xabi Alonso non c'è più, siamo lì. Davanti David Villa non c'è, anche il falso 9 un po' ha fatto il suo corso, non c'è più Fabregas che gioca più dietro, e non è Morata, è ancora giovane, ha tre presenze in nazionale, non gli si può chiedere più di tanto. No, è chiaro che adesso devono trovare un'altra pelle, insomma, devono trovare un'altra pelle, ma materiale ce l'hanno. Giocatori. Sì, materiale ce n'è, ma non è più buono come. Casorla non è Iniesta. Io voglio dire meno male, cioè questi hanno vinto europeo, mondiale, europeo, ma per tutti quanti. Dicevo prima a proposito della Juventus che le dinastie fanno bene dal punto di vista sportivo solo perché è in mano lo scettro, per tutti gli altri no. Un'ultima cosa, Filippo, hai visto in seconda divisione B il caso Parma spagnolo, il Lucena che insomma, pronti via, no, mescono il Cartagena, si sono messi tutti in ginocchio, perché non prendono i soldi. Ma non è la prima volta però, No? Non è la prima volta, no? Io di queste cose qua, non so se questa magari è rimbalzata di più, ma ultimamente, negli ultimi due mesi, ne ho viste almeno altre tre situazioni, forse erano un po' più in basso, magari in terza, però no, una anche in seconda B, adesso non mi ricordo in che... sì, ma qua la situazione, voglio dire, la bolla è scoppiata... se in Liga riescono a tenerli in piedi con lo scotch così, più giù veramente non c'è più una lira, questi non prendono soldi, ma guarda il dato del sindacato calciatori era tre mesi fa, cioè c'è un monte debiti delle squadre nei confronti dei calciatori che è impressionante, mi sembra 80 casi e parliamo di milioni per cui anche che non Liga. Si pagano gli stipendi, sì, anche in Liga. Perché sai poi cosa succede in Spagna? Lo stipendio base è molto basso. Cioè, tu sei un calciatore, prendi, magari devi prendere 100, ti danno anche magari solo 2.000 al mese. Dopodiché tutto il resto te lo danno in due tranche, una a Natale e una a fine anno. Se la squadra va male, se finiscono i soldi e non ti danno una delle due tranche, praticamente prendi 2.000 al mese. Stipendio. Sì, è chiaro. Esatto. Cioè, è chiaro. Questo è un metodo che infatti il sindacato calciatori voleva assolutamente togliere, cioè dire, si spalma lo stipendio mese per mese, così tu hai anche ben chiaro quant'è il debito vero, così. Però fanno fatica a farlo e c'è ancora questa consuetudine e questo è un casino. Certo, perché se ti salta un giro sei fregato, cioè non, sì, non a quel punto sì, ma capito. Lì a fine anno magari ti devono dare 40, il 50% di tutto lo stipendio, o anche il 60%. Per cui è facile. Poi fino a quando sei visto, sei visto. Arrivano in fondo, dice: guarda, ragazzi, ci sono i soldi, quest'anno avete giocato. Grazie mille, arrivederci. Insomma, funziona così. Sì, e quindi, siccome lo sanno e cominciano a vedere, capito, magari non arrivano neanche i 2.000 di cui parlavamo prima, se è campanello d'allarme, la situazione è complicata perché, sai, non. Sì, Barcellona e Real Madrid possono avere il loro mezzo miliardo di debiti, quelle però non fanno testo, 100 milioni quelle di fatturato. Quelle non fanno parte di quella realtà, sono realtà a sé stanti sull'astronave. Grazie, appunto, Phil. Però gli altri no. A voi, ciao Filippo, ciao. Buona Pasqua. Filippo Maria Ricci. Lorenzo da Trento al volo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Velocemente, volevo solo un po' di pietà per il Milan. No Sinisa Mihajlović. Penso che quando Berlusconi ha scelto Sacchi aveva fatto un buon lavoro e penso che possa farne altrettanto con un altro. Lorenzo, però secondo me per i tifosi del Milan sarebbe bene anche uscire dai paralleli col passato, perché questo come Sacchi e quell'altro come Capello, ogni allenatore che viene accostato al Milan richiama immediatamente qualche grande protagonista del passato, probabilmente è il momento di rompere questo filo rosso che lega il Milan agli allenatori del passato, ai giocatori del passato, a ciò che è successo. Non so se per spezzare questo filo servirà il signor Zhong Qingyu, che oggi è stato accostato alla proprietà del Milan. Siamo in attesa di smentite che dalla Cina, ripeto, sono già arrivate. Il gruppo cinese di Zhong Qingyu ha scritto: pura finzione, alcun contatto con il Milan, non abbiamo intenzione di entrare nel calcio e se anche decidessimo di farlo prenderemo un club cinese. Sulle agenzie, su Asca News in particolare, si dice qualcosa di diverso. Vediamo se arrivano smentite dalle parti di Arcore. Ci fermiamo per il GR e poi torniamo, state con noi, 800240024, perché poi c'è Beninazzo che ci spiega tutto. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo, si ricomincia. Tutti convocati. Dunque, come avete sentito alla fine del giornale radio, è arrivata, o sarebbe arrivata, smentita anche dell'entourage di Berlusconi a questa ennesima strada che porta ad Oriente, in questo caso in Cina, a Zhong Qingyu, proprietario della Wahaha Group. Non so se si dica così, sembra una grassa risata. Però, dato che prima dicevamo anche che queste cose in Italia le conoscono solo i diretti interessati e Beninazzo, i diretti interessati non rispondono al telefono, Marco Beninazzo da Sole 24 Ore sì. Ciao Marco. Per fortuna sì, io sono obbligato, ma lo faccio anche con grande piacere, come saprai. Allora, Zhong Qingyu, gruppo cinese, c'è qualcosa di vero? Agenzia di questa mattina, Asca News, Milan ceduto 75%, già fatta? Guarda, sentivo ora che parlavi di una smentita della FIN invece del gruppo, insomma io ho avuto modo di parlarne già questa mattina con altre radio e ho fatto presente insomma che a me non risultava questa pista, quindi ci sono le prove orali, diciamo, di quanto sì. Sto affermando. Io ora, al di là di scherzi, insomma, resto piantato sulla pista che sto seguendo da un po', come saprai, sì. E per la quale ho avuto ferma anche stamattina, appunto, che ci sarà un ulteriore incontro la prossima settimana. La pista, quindi, è quella di Mr. B e del fondo di Singapore. Un fondo, diciamo, che opera tra Singapore e Bangkok con molti thailandesi e del quale Mr. B sarebbe diventato in qualche modo il rappresentante, stando molto simpatico al nostro Mr. B, a Berlusconi. Sì, sì. Si è fatta in queste settimane, come avevo detto, la due diligence da entrambe le parti, e dopo Pasqua ci si doveva rivedere, l'appuntamento è confermato e non ci sono, almeno non c'erano state fino a questa mattina, manovre di disturbo su una pista che resta in questo momento la più calda, la più importante, e che dovrà portare a definire cosa? Una cessione di un pacchetto di minoranza inizialmente e a decorrere poi a un certo tipo di operazioni che si faranno, operazioni finanziarie con un certo tipo di anni a venire, al passaggio poi integrale al Milan a questo fondo. Sì. L'idea è questa, non ci sono, diciamo, penali già fissate, non ci sono accordi già fatti, come pure è stato scritto. Si tratta però della trattativa, scusa il gioco di parole, più seria che sia mai stata condotta in questi anni sul caso Milan, e quella che potrebbe arrivare a una conclusione, perché avrebbe una serie di vantaggi. E al momento, insomma, mi fermerei qui perché altro non mi è dato, non mi è concesso dire. Quindi diciamo che si va verso una cessione totale del Milan in un certo graduale, tempo. Graduale sì. Cessione totale del Milan, e questo è un primo punto. Con un ingresso con una posizione di minoranza, mentre l'altra ipotesi, per chiudere Marco, cioè quello di Wanda Group che è spalleggiata da Infront, che è un gruppo molto forte, molto solido, hai già spiegato molte volte, interessato a uno stadio che ancora è nelle idee, nei programmi, nei progetti, ma non c'è il jolly in mano. Questa è un'ipotesi al momento meno probabile. Al momento meno probabile, l'ipotesi che piace di più ovviamente a Gagliani, Anche alla stessa Barbara, perché salverebbe i loro posti, diciamo, di comando con i loro poteri, ma chiaramente finché non c'è una decisione di Fiera Milano, comunque non c'è un'autorizzazione comunale, un progetto serio al quale aderire, chiaramente Wanda non si muove, né ha bisogno di muoversi in questo momento. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie, alla prossima. Presto, ciao. Grazie a Marco Berinazzo da Sole 24 Ore. 800240024, vorrei parlare d'altro. Abbiamo chiarito questa, mi sembra, questa vicenda, smentita da una parte, smentita dall'altra, smentita da parte dei cinesi, smentita da parte dell'entourage di Berlusconi, e quindi mi sembra che la vicenda sia confusamente chiara, se mi permettete. Allora, questa mattina è intervenuto a 24 mattina, casa radiofonica di Alessandro Milan, uno dei personaggi del momento, e cioè Alex Schwatzer. Faccio tutto questo innanzitutto perché grazie al professor Bonatti io ho questa possibilità unica, o diciamo possibilità che forse prima di me nessuno ha avuto, anche perché forse non aveva la volontà di farlo, di fare una serie di cose a livello proprio di antidoping, di controlli che fino adesso nessuno ha fatto. Dunque, come sapete, Schwatzer, che si è affidato agli allenamenti, alle cure del grande paladino dell'antidoping Sandro Donati, varie opinioni su questo argomento, non mi sembra insensata, anzi, quella di Fausto Narducci nel suo commento di oggi sulla Gazzetta dello Sport, scrive, inizia il suo commento così: un'operazione di marketing. Non ci sono altre etichette per definire l'iniziativa che ha permesso ad Alex Schwatzer di uscire dal suo carcere dorato, nel quale l'aveva recluso il più clamoroso caso di antidoping negli ultimi anni, verso la libertà vigilata che porta direttamente a Rio. Poi a Rio non lo so, però su questo concetto dell'operazione di marketing io non sono così in disaccordo, ecco. Abbiamo una trofea di Schwatzer, poi andiamo sul tennis, quello del suo rapporto molto chiacchierato con Caroni Acosta. Sicuramente non bene, è chiaro. Io spero che adesso magari la sua squalifica verrà ridotta, o perché lei adesso c'ha il processo poi a Losanna davanti al TAS, quindi io spero che questa vicenda si concluda innanzitutto presto e poi magari in modo positivo per lei. E questo era Schwatzer questa mattina, 24 mattina con Alessandro Milan. Ciao Paolo Bertolucci, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Come la pensi tu? Poi parliamo di tennis, ma di questa. Guarda, io passaporto, non ho nessun problema a farlo, solo che col mio sangue qui trovano solo trigliceridi e un po' di colesteranzi, parecchio colesterolo, guarda. Senti Paolo, vorrei... È una brutta storia, insomma, purtroppo lo sport non è esente da questo e quindi che devo dire, qualcuno è favorevole anche a perdonare, qualcuno no, io sono per i no, però io anche ecco. Ed è per questo che ho detto prima, non sono su una posizione molto diversa da quella di Fausto Narducci, che scrive solo un'operazione di marketing. Poi sarebbe interessante anche, insomma, capire la posizione di Donati, che è sempre stato il paladino assoluto e il più grande fustigatore delle pratiche del doping, quindi perché si presta a questo? Sulla via di una redenzione pasquale o per altri motivi? Lo scopriremo. Paolo, vorrei celebrare invece con te, vorrei celebrare con te la vittoria 700 di Serenissima Williams a Miami. Serenona, sai, fisicamente è debordante, sì. Nessuna si può avvicinare a lei, insieme alla Navratilova e alla Graf, io credo che siano le tre giocatrici che hanno fatto la storia di questo sport. Ah, l'hai toccata piano, quindi la metti sul podio con quelle altre due, Con quelle altre due, sì. Beh, insomma, lei poi se non avesse avuto qualche problemino e non fosse stata, diciamo così, distratta anche da cose fuori dal campo di gioco, secondo me sarebbe 800, ecco. Sì, però guarda che essendo stata distratta da cose al di fuori del campo di gioco, come dici tu, ed aver raggiunto questi risultati, insomma, ne conferma, ne aumenta forse la grandezza. La grandezza. No? È vero, è vero. Infatti ho detto, per me quel podio lì, poi sai, è come i grandi campioni, no? Che ci possiamo divertire al bar a fare le classifiche, ma insomma il podio a quelle tre lì non glielo toglie nessuno. Va notato anche che, considerazione generale, le carriere si sono allungate molto rispetto agli anni 80-90. Sì, è vero, è vero. C'è stato un momento in cui, diciamo, c'era questa grande gioventù, eccetera. Poi quando arrivavi da 16 a 23 anni, e poi ciao. Ecco, dovevi, come dire, passare la mano. Qui invece adesso sia tra i maschietti che tra le femminucce, gli over 30 stanno furoreggiando. C'è una ragione? Allenamento. La ragione è che è migliorato da impazzire quella che è la metodologia, gli allenamenti, gli attrezzi, perché non dobbiamo dimenticarci gli attrezzi che aiutano, e non poco, è come saltare con l'asta con la canna di bambù invece che con quelle attuali, e poi sicuramente l'alimentazione e tante altre piccole cose. Come ben sai, ogni giocatore ha il suo team e viaggia col suo team, quindi se tu hai tutte le sere, vai in mano al fisioterapista, al medico, all'allenatore, allo psicologo, certo, all'accordatore, chi più ne ha più ne metta, è normale. Ma anche lo psicologo, hai detto hai citato una figura importante, cioè quella dello psicologo, perché vitale. No, ma perché abbiamo assistito in passato, mi viene in mente Borg, mi viene in mente anche la Seres, a ritiri per eccesso di stress. Adesso non ci sono più. No, è vero, eccesso di stress, sì, poi scoprire la vita all'improvviso, che al di fuori del campo a tennis ci sono altre cose, ma adesso questi giocatori sono ancora più completi sotto tutti i punti di vista. D'altronde il tennista a 17-18 anni deve decidere cosa fa nella vita, è sì, come ne avesse 40-45, sì. Deve investire su se stesso, non è una cosa facile, invece che comprarsi la macchina o fare il cretino in giro, deve parlare diverse lingue, deve aver visto il mondo, insomma ti richiede una maturità che gli altri sport, dove dietro hai una squadra che ti assiste, ti prenota, ti programma, tutto quanto, tu non hai, e quindi devi crearti il tuo team. E che team? Un'ultima cosa, Paolo, ma siamo a che fare con la psiche o a che fare con il logorio della coppia? La notizia per cui siamo ancora tutti tennisticamente in lutto del divorzio tra Rani e Vinci. Lì bisognerebbe essere molto, ma molto vicini, per non dire proprio all'interno. Insomma, la verità non so se si saprà mai. L'unica cosa è che è veramente un peccato, perché erano e sono, insomma, fortissime in coppia, perché hanno buttato al vento una barca di soldi, ma questi sono affari loro. Non possiamo conquistare determinati titoli, anche se loro poi hanno detto che in Federation Cup sono disponibili anche a giocare, però insomma era una coppia ormai storica, sulla quale facevamo molto, ma molto affidamento. Però come in tutti i grandi matrimoni, a volte si incrina un qualcosa, e quindi come tra moglie e marito non mettere il dito, è meglio non metterlo neppure lì. Grazie Paolo, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao Paolo Bertolucci, piacere. Io voglio chiedere ad Oscar, che è un ascoltatore prenotato, se davvero chiama da Hong Kong, non credo. No, io sto chiamando dall'Italia. Mi hanno scritto Oscar da Hong Kong, vabbè, ma che siamo internazionali. Da Hong Kong, risiedo, sì, lavoro, famiglia, vado a Hong Kong, casa. Quindi sono adesso in Italia per motivi di lavoro, sì, anzi sono praticamente sul confine con l'Austria, sì, perché stiamo facendo uno stabilimento in Austria. Quindi volevo dire che io, il Mr. Dong lo conosco molto bene, e lui conosce molto bene l'Italia, in quanto coopera sia come cliente che come, diciamo, anche come showroom con una grandissima azienda del gruppo San Benedetto, sì, dove io ero consulente, sì, e importa anche vini da una ditta di Catania, credo, quindi lui, sì, l'Italia la conosce molto bene, la Bastica è lungo e largo, e so che potrebbe essere interessato veramente a Milano. Io sono milanista, sono nato a Milano, anche se i miei hanno fondato l'Inter, e sono gli Interman, e quindi io auspico veramente che il Milan venga comprato da Zong, che è uno che è veramente... Ma c'è stata una smentita di facciata, secondo me. Anzi, un paio di smentite, una da una parte e una dall'altra. Credo molto poco. Lui conosce molto bene l'Italia, ha anche un procuratore in Italia che conosco. Io sono convinto che la Manina la sta allungando. Ah, e questo, perché questo è un gruppo di 15.000 o 20.000 persone, che è un multi milionario in dollari. Si faccia risentire, si faccia risentire. Ma che esploriamo dall'altra parte del mondo, le faccio sapere. Grazie. Ti sento sempre. Grazie mille, Oscar. Grazie, grazie, buon viaggio e buon lavoro. Allora la utilizzeremo a soldato sul campo come corrispondente a Hong Kong e vediamo se questa pista verso Oriente si cospargerà di fiori. Renzo, provincia di Bologna, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Non chiama da Carpi, ma ha scritto provincia di Bologna corretto, giusto? Sì, sì, sì. Va bene. Volevo intervenire sul discorso del Carpi. Io sono bolognese, ma diciamo sono simpatizzante del Bologna, ma non è che sono tifoso, perché per me non bisogna essere tifoso, ma semplicemente simpatizzanti. Volevo dire che allora, appunto, di qua a Bologna, per esempio, non vedevo l'ora di prendere il Carpi, no? Sì. Allora, il Carpi ha speso 3 milioni, mi pare, per tutto il parco giocatori. Sì. Il Bologna ne ha spesi 20. Poi alla fine ha fatto una figurata da Polli proprio ieri sera, per esempio. Poi volevo dire che però non è che diciamo simpatizzo per le tifo, però ha ragione. Perché? Perché il discorso è che nel mondo del calcio insomma, vogliono guadagnare sempre di più e quindi naturalmente il Carpi ha un bacino come il Sassuolo, come il Chievo, che ne so, altre squadre. E quindi? E quindi alla fine bisogna che il mondo del calcio possa lavorare. Guardi, facciamo un po' fatica a tenere la comunicazione, ma i concetti li abbiamo capiti. Quanto al divario tra il budget del Carpi e quello del Bologna, possiamo solo ripetere che gli estratti contano, vanno in campo. Carpi ha costruito una squadra che funziona perfettamente e ci sono serie probabilità che vada al piano di sopra a braccetto con il Bologna. Quanto al secondo discorso, vale il merito sportivo fino a prova contraria, e quindi chi merita di salire in Serie A è giusto che lo faccia, come sta facendo il Carpi. Un piacere salutare un plurimedagliato olimpico come Diego Occhiuzzi. Spada, argento individuale, bronzo a Londra, bronzo a Pechino. Ciao Diego. Ciao, buonasera. Come stai? Sciabola, non mi dire niente. Sciabola, scusa. Ma lo so anche, sciabola. Bene, sto bene, grazie, sto bene. Ma come sta il serbatoio delle nostre medaglie? Come sta, scusami? Il serbatoio delle nostre medaglie, la scherma. Beh, la scherma per fortuna porta sempre tante medaglie, ecco, quindi stiamo lavorando per le prossime Olimpiadi e cerchiamo di fare meglio anche delle altre. In particolare noi della sciabola avremo qualche difficoltà perché non faremo la gara a squadre e faremo solamente una gara individuale con due persone, quindi sarà una qualifica abbastanza dura, però insomma ce la mettiamo tutta, cerchiamo di arrivare al 100% alle Olimpiadi e poi vediamo. Senti Diego, ma come mai in Italia si parla sempre di crisi dei settori giovanili, di nuovi talenti eccetera, mentre appunto il serbatoio della scherma sembra non svuotarsi mai? Ma perché c'è una grande scuola? Esatto, noi abbiamo una grandissima scuola, abbiamo degli ottimi maestri, in realtà il CONI investe anche tanto, potrebbe investire di più, però comunque investe tanto nel settore giovanile, quindi c'è una continua crescita da parte dei giovani e c'è un continuo ricambio generazionale, quindi si cerca di lavorare anche in prospettiva futura. Io in particolare sono ormai, diciamo che non sono più giovanissimo, ho 34 anni, quindi mi gioco le mie ultime carte queste Olimpiadi, però già sto lavorando anche come maestro, ecco, cerco di dare il mio aiuto anche ai più giovani, quindi forse anche questo aiuta tanto a far crescere i ragazzi. Ascolta, ma basta essere forti e quindi vincere tante medaglie, o secondo te la scherma ha bisogno anche di personaggi fuori dalla pedana, come mi viene in mente Aldo Montano, ma poi ce ne sono antinavezzali e trasversali, quindi non vada tutte no, le parti. Sì, no, guarda, la scherma, noi abbiamo una grande fortuna di essere bravi. Sì. E questo ci porta anche, ci dà la possibilità anche di essere conosciuti per altre cose. A noi fa piacere che ci siano anche personaggi come Aldo, come Margherita Granbassi, come Valentina Mezzali, Di Francisco, ecco, tanta gente che è riuscita ad andare in TV e a farsi conoscere. Perché comunque si parla del movimento scherma, a noi interessa che si parla della scherma. Sì. E poi i personaggi, nella scherma ce ne sono parecchi, ecco, siamo un mondo particolare, è un mondo, una grande famiglia fatta di grandi personaggi oltre che grandi sportivi. E questo è importante secondo me. Un'ultima cosa, Diego Chiuzzi, se domenica alle 12:30 ci fosse Napoli, come ci sarà d'altra parte Roma-Napoli alla stessa ora, il Gran Premio di Formula 1 o quello del Moto Mondiale, su che canale metteresti? Per fortuna ho più televisori a casa, quindi no, a parte gli scherzi, io dico Napoli, per me da quando ero piccolo mi porto avanti, porto questa passione per il Napoli, quindi sicuramente vedrò la partita del Napoli, però mi ha emozionato tanto vedere le Ferrari e Valentino Rossi domenica scorsa, è stata una grandissima soddisfazione, non solo Valentino ma anche un podio tutto italiano, è stato bello per l'Italia e magari fossero tutte così le domeniche, voglio dire, si è parlato di sport, di vittorie, e non si è parlato di altre cose che qualche volta il calcio purtroppo porta con sé. Allora, la stessa cosa che ho detto io aprendo il programma di lunedì. Grazie Diego Chiuzzi, a presto. Grazie a voi. Ciao Diego, ciao. Con lui ci fermiamo, ma torniamo domani alle 2 qui, dall'altra parte è vigilia del ritorno del campionato e saremo qui a parlarne con voi. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, ciao. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!